piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ok? Ok. Bene, infilaci il naso. Non essere timido, infilaci tutto il naso, così. Degli agrumi. C'è un po' di fragola. Frutto della passione. Oh, ci sento anche una flebile soupçon come di asparagi. E anche una certa sfumatura di sembra formaggio olandese. Cavolo. Fragole, sì. Sì, fragole. Bene. Il formaggio no. Vabbè. Posi il bicchiere e gli fai prendere un po' d'aria. L'ossigenazione lo fa aprire, dischiude gli aromi, i profumi. Questo è un film sideways, però naturalmente chi non ha mai seguito un corso per sommelier non sa esattamente qual è questa fase in cui le persone, che non capiscono nulla naturalmente, vengono invitate a dire cosa sentono da quel bicchiere di vino. Allora è facile definire anche i motivi per cui le signore e i signori si trovano in quel tipo di luogo. I corsi serali per sommelier sono dei grandi luoghi per riallacciare rapporti, risentirsi vivace. Quindi cosa sente? Odore di sella sudata di cavallo e cose del genere. Beh, io oggi non voglio parlarvi tanto dei virtuosismi olfattivi, ma oggi vi voglio sottoporre a un test. Prendetela con il beneficio dell'ironia, naturalmente. Vogliamo far vedere come nasce comunque quella che potrebbe essere una notizia allarmante, legata comunque alla salute, al benessere e via dicendo. Sta girando da un po' di giorni una notizia, anzi questa mattina è stata ampiamente ribattuta, che l'Università di Stoccolma hanno fatto un test fantomatico, ma probabilmente aveva sicuramente una base scientifica. Non sto qui, non è il mio mestiere definirlo, però fa ridere perché praticamente hanno visto che quando uno comincia a non sentire più gli odori vuol dire che sta per morire. Ve la sintetizzo: hanno preso delle persone, l'hanno testate per 10 anni, hanno visto che man mano quelli che morivano erano quelli che non riuscivano a riconoscere gli odori. Quindi stamattina si sono guardati o intonti, mi hanno usato l'aria, dicevano: ma tu che senti? Ma io niente, stiamo per morire, piffero, è bruttissimo. E allora ci siamo inventati il test di Ekström. Ekström è una delle ricercatrici di Stoccolma che stanno lavorando a questo progetto. Vabbè, il test di Ekström è plausibile, potrebbe essere sicuramente plausibile, perché se voi leggete queste notizie sulla perdita dell'olfatto che è corrispondente a star per morire, ci sta tutto il test di Ekström. Io poco fa ho fatto un video su Facebook dicendo alle persone, mettendo il test di Ekström che adesso vi sottoporrò naturalmente, dico: fate questo test. Il test di Ekström è semplicissimo, può essere fatto in diretta, ve lo sottoporrò fra un istante e voi sarete le cavie, i test. Per la prima volta parleremo di olfatto alla radio, descriveremo gli odori alla radio, ma non per una sorta di manierismo, per una sorta di desiderio di espressione poetica, non per una supposta sinestesia che non naturalmente possediamo, ma semplicemente per salvarvi la vita. Il test di Ekström per sapere se siete ancora vivi. Dall'Università di Stoccolma un'inquietante notizia che mette in relazione la riduzione del senso dell'olfatto con l'avvicinarsi della morte. Brutalmente detto, se non sentite più gli odori, siete quasi morti. Dimostrateci che siete ancora vivi facendo il nostro test. Annusa o muori. Chiamate all'800 24 00 24 e fateci in diretta la vostra mappa olfattiva. Contate e descrivete gli odori che vi arrivano al naso. Avrete la valutazione della vostra vitalità. La certificazione di essere ancora vivi sarà orientata sulla seguente scala di Ekström: A. Almeno 3 odori. Tirate a campare. B. 2 odori. State tranquilli, ma non troppo. C. 1 odore. Cominciate a fare testamento. D. 0 odori. Siete degli zombie. Istruzione per il test: mantenete la mente sgombra. Soffiatevi il naso e liberate le narici. Chiudete gli occhi e fate una lunga ispirazione. 800 24 0024, volete sapere se siete ancora vivi? Beh, telefonate all'800 24 0024, vi sottoporrò scientificamente al test di Ekström, ma naturalmente per darvi fiducia e darvi sicurezza mi sottoporrò io per primo al test di Ekström in diretta in questo momento. prego il professor Chiappini darmi un tappeto musicale sul quale mi adagerò per fare il test di Ekstrom. Mi soffio il naso. Ecco, questo va fatto naturalmente, fa parte della scientificità di questo test. Ho le narici sgombre in questo momento, chiudo gli occhi, faccio un'ampia ispirazione e vi descrivo gli odori che sto sentendo in questo momento. Il primo a giungere alle mie fosche narici è l'odore di fiatella della guaina del microfono in gomma piuma, che assorbe naturalmente le espirazioni, tutte le persone mi hanno seguito al microfono, quindi c'è un po' di fiatella di Luca Telese, un po' di fiatella di chi è stato prima di me, non so bene, a fare questa trasmissione, ma fiatella sedimentata di tutti quelli che penso negli ultimi 10 anni, finché sono 10 anni che non viene cambiata, parlano in questo tipo di supporto per microfono, è una guaina anti-popping, serve che non fa sparare le P. Questo è il primo odore. Secondo odore, qualcuno usa appiccicare le gomme da masticare sotto il tavolo nel quale io sto facendo la trasmissione. Sente ancora l'odore di masticaticcio e di gomma al mentolo, ma ormai svanita, misto all'Orasiv, adesivo per dentiera di chi le ha masticate prima. Do un'altra annusata, sento la plastica della bottiglietta di acqua minerale che è accanto a me. Sento la moquette che sa di topo morto sotto i miei piedi. Direi io ho superato il test di Ekstrom, posso ancora dire che sto tirando a campare. 80024 0024, Pino, prima cavia. Buongiorno Nicoletti. Si vuole sottoporre al test di Ekstrom? Assolutamente sì. Vediamo se è vivo. Per questo. Allora, sta tranquillo? Ha chiuso gli occhi? Sì. Ha liberato le narici? Sì, sono libero. Faccia un bel respiro, tiri su. Ah, descriva subito gli odori, vediamo quanti ne descrive. Primo. Sì, allora, il primo è l'erba bagnata, che c'è un prato qua vicino a me. Uno, va bene, erba bagnata. Poi. Che tipo di erba? Che tipo di erba? Riesci a definirla? Erba da prato. Erba medica, erba medica. Bene. No, è ben colta. Ah, ben colta. Pratina all'inglese. Ecco, pratina all'inglese. Bene, uno odore. Poi, l'odore dello scarico delle macchine, perché sono sul marciapiede. Monossido di carbonio, secondo. Sì, monossido di carbonio. E poi l'odore di gomma. Gomma quale? Gomma delle copertone automobile. Copertone lasciate sull'asfalto. Ah, sgommata sgommata, specifichiamo, sì. Sgommata sull'asfalto. Quindi lei ha almeno 3 odori, quindi può tirare a campare. Se ne sente un quarto è vivo sicuramente. Ne sento, ci arriva a 4? Sì, come no. Dica un quarto. E quanto arriva? Allora, l'odore di plastica della macchina, dove sono io qui vicino. Sì, il cruscotto, bene, sì. Sì. Esatto. Quindi una mappa olfattiva legata, 4 diciamo già oltre la soglia diciamo di pericolo. Potrebbe descriverne ancora, lei è tranquillo, è vivo. Sì. Elisa. Ah, quindi sono vivo. È vivo, è vivo, assolutamente. Il test di Ekstrom la dà per vivo. Elisa. Buongiorno. Vuoi fare il test di Ekstrom? Come no, certo. Ha chiuso gli occhi? Subito. Pulito il naso? Sì, soffiato. Sto a posto. Faccia il respiro? Ispiri? Sì. Allora, nell'ordine. Descrivo. Lo scarico della macchina che ho di fronte, perché mi trovo in mezzo al traffico. Monossido di carbonio. Beh, chiaro, sta guidando. Esatto, sì. Esatto. Però già lo sento. Poi, vuol dire che è vivo. Finché giù un canale, quindi ho... perlomeno un paio di odori orribili, però... deve classificare, van classificati. Nuova marce, sicuro, sì. Però a tratti anche odore di terra bagnata, che potrebbe sembrare anche un odore salvo. Sono almeno 3. Tre. Quindi forse sono salvo. Ce la fa a fare un quarto? Ma quarto direi di no. È allora lei tira a campare, tira a campare. Sente diciamo 3 odori, sono 3 puzze, però tira a campare, che vuol dire... L'importante è che oggi torni a casa e dica ai suoi bambini questa è la carezza del test di Ekstrom, ancora la mamma è viva. Questo è importante. 80024 0024, ve lo ricordo, vi rimando esattamente alla versione sincretica del test di Ekstrom per capire se, come le 2 persone che hanno appena telefonato, avete voglia di certificare la vostra vitalità. Chiamate all'800240024 e fateci in diretta la vostra mappa olfattiva. Contate e descrivete gli odori che vi arrivano al naso. Avrete la valutazione della vostra vitalità. La certificazione di essere ancora vivi sarà orientata sulla seguente scala di Ekstrom. A. Almeno 3 odori. Tirate a campare. B. 2 odori. State tranquilli, ma non troppo. C. 1 odore. cominciate a fare testamento. D. Zero odori. Siete degli zombie. Istruzione per il test. Mantenete la mente sgombra. Soffiatevi il naso e liberate le narici. Chiudete gli occhi e fate una lunga inspirazione. 800240024, perché sottopongo il mio pubblico al test di Ekstrom? Beh, per avere la certezza di avere un pubblico di persone vive, o perlomeno persone che sopravviveranno almeno fino a giugno, data della fine di questo ciclo della trasmissione. Questo per me è molto importante. Il test di Ekstrom finora ha dato dei risultati abbastanza incoraggianti. Abbiamo sentito degli ascoltatori in cui la media, posso dire, è sufficientemente vitale. Diciamo che tre odori, secondo una specifica della scala di Ekstrom, significa che almeno altri 5 anni dovreste campare. Sentiamo Manuela, buongiorno. Buongiorno. Manuela, uno per volta, sì. Lo so che c'è una fretta. Scusa che ho il viva voce, buongiorno. Lei mi faccia, solo per capire, avere qualche elemento in più, un piccolo test nel test, perché è interessata a sottoporsi al test di Ekstrom? Io veramente volevo precisare una cosa. Mia mamma, sono 4 anni, anche 5, che non sente più odori, che ai è molto anziana. Sì. No, ma sta benissimo, cavolo, sta molto bene, quindi... Magari li sente, non glieli dice? Non vuol dire. No, perché anche magari la pizza, odori buoni, importanti, no. Ma provi a aprire una fialetta puzzolente, sua madre dice, ah, che schifo, li sente. Purtroppo non sente neanche quelli, sono sicurissima. Diciamo che per questo questa è la prova esattamente che queste notizie legate alla salute molte volte possono seminare degli allarmismi terrificanti. Noi ci stiamo scherzando, naturalmente. Vabbè, lei comunque, infatti, siccome lei teme che sia ereditaria questa sindrome di Ekstrom, si sottopone al test di Ekstrom in piena consapevolezza che questo potrebbe darle delle informazioni importanti sulla sua vitalità. Allora, cominciamo. Ha respirato? È pronta? Sì, ho respirato. Allora, descriva gli odori. Sono in macchina, quindi sento solo puzzo di macchine, pochettino l'odore dell'interno della macchina che ha pelle, quindi c'è il sole che batte e mi fa sentire quell'odore. Il rivestimento in pelle dei sedili? Esatto. Le restituisce questo odore? Adesso vado a prendere il pane, così faccio un po' di confusione di odori. Però non lo sente l'odore del pane, in questo caso? No, non ce l'ho qua. No, Ekstrom dice la premonizione olfattiva. Quando uno pensa di sentire un odore che ancora non sente, è la premonizione olfattiva. Lei sa già che si tira l'odore del pane e c'ha questa allucinazione olfattiva. Esatto. Poi ne sente soltanto due? Purtroppo sì. Tranquilla, ma non troppo. Mi preparo. Prepari, ma magari, non so, faccio una visita all'otorino, si concentra in non resciti un altro odorino nemmeno se si sforza in questo momento, niente. No, lo so, mi dispiace. Non sento niente perché c'è una puzza che devo tenere i finestrini chiusi. Lo so, però Ekstrom dice, bisognerebbe farla però in un ambiente meno contaminato, in cui sia più facile. Diciamo che il test non è poi così tanto veritiero quando uno sta chiuso in macchina di chiudersi i finestrini, quindi stia tranquilla comunque. Fabrizio. Eccomi, buongiorno. Si sottopone al test di Ekstrom? Sì, però vorrei dire anche un'altra cosa subito dopo, che ho una memoria olfattiva che non so se ce l'hanno tutti quanti, ma è importante. Io ricordo le persone più che dalla faccia, dall'odore. Facciamo prima il test, poi lei parla un po' più di quella che è lo sviluppo della sua facoltà olfattiva. In questo momento mi dica gli odori che sente esattamente nel momento dove sta. Sono in una strada che attraverso una campagna in Puglia, sì. Quindi sento odore appena piovuto, sento odore di terra bagnata, di erba bagnata. Purtroppo ho fatto gasolio, quindi ho un po' di odore di gasolio. L'odore del gasolio, tipico odore del gasolio. E anche dei fazzolettini che ho cercato di usare per... Salvettine impregnate, quelle profumate? Impregnate. Per togliersi gli odori sospetti di dosso, perfetto. Ho superato una macchina con qualcuno che fumava, mi è entrato il fumo di sigaretta. Sì, riesce a definire tipo che marca di sigaretta era? Scarsa, era un camionista, quindi. Vabbè, camionisti possono fumare raffinatissimo, che ne so. Ma tipo Alfa o Nazionale. Un Alfa, Alfa o Nazionale, benissimo. Ecco. Vada avanti. E ancora ci deve essere qualcosa in macchina, qualche avanzo di cibo, qualche busta forse. Definisca il briciolame sul tappetino. Deve essere il cartoccio di un cornetto o di una brioche che ho comprato. Brioche rafferma. Ecco. Però non è che è andato oltre i tre odori, però. Beh, mi sa che signora di 5 sigarette. Ah, beh, sì, ecco, adesso mi parli della sua facoltà, diciamo, di memorizzare gli odori. Io ho una, non so se sia normale o meno, comunque riesco a riconoscere le persone dall'odore, chiaramente le persone che con le quali interagisco un pochino di più. Le persone che puzzano, naturalmente, perché quelle che... Ma non de- no, assolutamente, anche le persone che profumano. Diciamo che mi viene naturale catalogare gli odori per... Si ricorda, sento un odore, si ricorda una persona. Questo sì, è abbastanza... Le collego a frutta, fiori, cose, plastica, odori sgradevoli, odori meno gradevoli. Ah, quindi i suoi amici, strato, diciamo, nella rubrica del telefono, invece che mettere noi, mette cetriolo, metto... melanzana, pomodoro, sì, zucca, così. Vabbè. Questa cosa mi è utile perché io ho un ristorante e quindi appena qualcuno apre un frigorifero, io riesco a sentire se c'è qualcosa che sta più o meno per andare a male. Ma è questo lo sai, in questo la sento, mi sento affratellato a lei. Io quando apro il frigo sento tutto quell'odorino di obitorio, capisco c'è qualcosa di nascosto che qualcuno non ha buttato via, non ha pulito. È l'odore di obitorio del frigorifero, è terribile, è vero? È importante. Quando vado in un ristorante mi danno una cosa che non va bene, io appena arrivo a tavola, ancora in mano al cameriere, dico guardi, non va bene, e poi mi dice ma non l'hai ancora assaggiata, e dico guardi, non c'è bisogno. Le dirò una mia debolezza autobiografica vera, reale, di questa mattina, posso certificarla. Ho comprato ieri sera un paio di scarpe nuove. A casa mi sono accorto che l'odore non mi piaceva, l'ho riportata al negozio questa mattina per cambiarle. Perché c'era un odorino di plastica, di colla, che non l'avevo avvertito nel negozio, l'ho avvertito nel buio della mia silente e austera cameretta, e quindi l'ho riportata. 800 24 00 24, tra un istante continueremo con la scala di Ekstrom. Melog. Ciascun profumo contiene 3 accordi, la testa, il cuore e la base, e quindi fanno 12 note in totale. L'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all'accordo del cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore, e infine l'accordo di base, la scia del profumo, che dura alcuni giorni. Ma gli antichi egizi credevano che si potesse creare un profumo assolutamente fuori dal comune aggiungendo solo una nota in più, una sorta di essenza decisiva che avrebbe risuonato e dominato su tutte le altre. Questo è l'apprendistato di Jean-Baptiste Grenouille quando Bandini, il grande creatore di profumi, gli spiega qual è la classificazione delle parti che compongono un profumo. Questo è il film tratto dal romanzo di Suskind, Profumo. Questo Grenouille, alla fine, a forza di fissarsi di fare dei profumi bellissimi, si fa la spremuta di donna, ammazza un po' di donne e le spreme, gli fa un profumo fantastico. Come lo cospargeva, la gente andava sui piedi. Alla fine, dice proprio la frase finale del film, dice: se fosse andato a Versailles il re gli avrebbe baciato i piedi. Se avesse scritto una lettera al Papa, il Papa l'avrebbe proclamato nuovo Messia. Tanto era il potere di questa essenza che lui aveva scoperto. Poi finirà male, finirà marcito in mezzo ai topi, la spazzatura come era nato. Allora stiamo andando avanti con il nostro test di Ekstrom. Secondo la scala di Ekstrom noi vorremmo definire quanto vi resta da vivere. Questa è la notizia che circola da questa mattina in questo studio che era stato fatto a Stoccolma, che quando le persone non sentono più odori vuol dire che stanno per morire. È vero, finora abbiamo dimostrato di avere un pubblico abbastanza vitale, ma vi ricordiamo quello che è il test di Ekstrom, perché sono veramente tanti, mai tanta gente ha telefonato come questa mattina, ma tutti vogliono la certificazione di essere vivi e noi ve la daremo. Chiamate all'800 24 00 24 e fateci in diretta la vostra mappa olfattiva. Contate e descrivete gli odori che vi arrivano al naso. Avrete la valutazione della vostra vitalità. La certificazione di essere ancora vivi sarà orientata sulla seguente scala di Ekstrom. A. Almeno 3 odori. Tirate a campare. B. 2 odori. State tranquilli, ma non troppo. C. 1 odore. Cominciate a fare testamento. D. 0 odori. Siete degli zombie. Istruzione per il test. Mantenete la mente sgombra. Soffiatevi il naso e liberate le narici. Chiudete gli occhi e fate una lunga inspirazione. E non mi chiedete chi sia Ekstrom, che ha inventato il test di Ekstrom. La foto che ho messo su Facebook è di una signora Ekstrom che probabilmente è già morta, da una rassegna di foto della famiglia Ekstrom dall'Ottocento tornando indietro. Però il test di Ekstrom sembra che sta funzionando, perché tutti vogliono sottoporsi. Centinaia di persone stanno chiamando all'800240024 per capire se sono ancora vivi. Claudio. Buongiorno signor Oscar, sono Claudio da Verona. Sono buongiorno, buongiorno, mi dica, sono qua. Allora facciamo il test subito. Pronti? Ho già inspirato. Sì. Per respiro profondo. Bene, bene. E sto fumando la sigaretta elettronica, quindi sento l'aroma della liquirizia, perché uso questo liquirizia in questo momento. Secondo gusto, un pacchettino di chewing gum. Chewing gum, dov'è? Scusate, mi sto giannininizzando, mi chiamo Oscar. Allora, vado avanti, chewing gum, e l'odore è di fragola. In effetti c'è scritto fragola sulla scatoletta. Quindi lei, Claudio, è vivo a tutti gli effetti. Va ancora avanti. Poi, siccome da poco ho lavato le mani, sento un odore tipo vaniglia cocco. Sono quei saponi liquidi adesso che usano tanti aromi, e sento un odore di vaniglia cocco. Va bene, lei, posso dire a questo punto, stia tranquillo, va oltre la scala minima, che sono 3 profumi che tira a campare, quindi lei sicuramente sarà ancora vivo per un po'. Ha dei problemi di udito probabilmente, non tanto di olfatto, lo consiglio, perché mi ha chiamato Oscar, io l'ho secondata facendo la voce di Oscar. Agnese, andiamo avanti. Buongiorno. Descriva. Sono da Mantova. È pronta? Prontissima. Cominci. Primo. Allora, innanzitutto sono in cucina, quindi sì. Odori di cucina. Cipolla. Quindi mi conferma che è l'ora del soffritto questa. Sì. È altro che l'ora della salute, è l'ora del soffritto, lo dico da sempre. Cipolla. Allora, soffritto di cipolla. Poi, cavolfiore, purtroppo. Oddio, no, oddio. Purtroppo. L'odore di cavolfiore, guardi, l'odore di cavolfiore per me è sintomo della peggior reclusione dei sensi possibile. Mia madre, ogni volta che portavo... No, glielo racconto. Ogni volta portavo una ragazza... Mamma, posso portare una ragazza a studiare? Certo, portala. Però non fare il cavolo, per favore. Sicuro, tranquillamente. Cavolfiore a gogo. È come la puzzola per allontanare le tentazioni dal figlio. È logico, ma tutte le mamme fanno di tutto per i bravi figli. Certo, per impedirgli di fare esperienza di vita. Andiamo avanti. Cavolfiore e cipolla. In quella puzzolente cucina che altro si sente. Sì. Poi, noci tritate, perché sto tritando le noci. Per farci cosa? Ci faccio la pasta con la salsa di noci. Ah, bene, cipolle, noci, avanti. Avanti. No, ma li sente davvero? Non è che lei vede le cose e poi dice che sente l'odore, non deve barare. No, lo sto addirittura mangiando, quindi stia vabbè, tranquillo. No, aspetta, finisca di parlare. Ho raccolto il bucato, quindi odore di ammorbidente. Ammorbidente. Io sono una casalinga, quindi tutti odori di casa, odori di cucina. Non mette mai il naso fuori casa? No, lo metto fuori casa, ma la mattina cucino, lavoro. Purtroppo. Quindi lei sente tutti gli odori, quindi tranquilla, lei almeno 5 anni ancora ce l'ha da campare, minimo. Sì, io minimo. Mi auguro anche di più. No, veramente. No, questo è il minimo, il test non va oltre. Minimo, lei ha superato i 3, quindi almeno 5 anni sta tranquilla. Fra 5 anni si risottopone al test di Ekstrom e vede quanto c'ha ancora. Maria Teresa. Sì, sono qua. Buongiorno Nicoletti, piacere di sentirla. Certo, per stanare voi donne al telefono devo mettere qualcosa che ha a che fare con lo star bene, con le sfighe, con la malattia, perché solo su questo acuite la vostra sensibilità. Vabbè, facciamo il test di Ekstrom. Io sono una zombie, ma sono una morta che cammina da parecchio. Non sento quei famosi odori che nominava la signora adesso, di cipolla. Ma lei dove sta in questo momento? Dov'è intorno? Dove sta in questo momento? Cos'è? Adesso sto in cucina. Cosa ha intorno a lei? No, c'ho il parmigiano. Prenda un pezzo di parmigiano. Sento neanche l'odore del parmigiano. Ma se lo avvicina, nemmeno se lo avvicina. Neanche l'odore dell'aceto, niente. Se lo avvicina alle narici, nemmeno. Neanche se lo avvicina alle narici. Niente, non sente nulla. Ma è una fortuna, tutte le puzze non le sento. Ma che bello. Sì, però, allora Maria Teresa, facciamo la domanda che non ho mai fatto a nessuno che fa parte del test di Ekstrom. Lei sente un inarrestabile bisogno di mangiare il cervello a qualcuno? No. No. Vabbè, no. Dovrei dare una mazzata a qualcuno, magari. Mazzata. Una bastonata. No, perché se avesse bisogno di mangiare cervello era già nella fase zombie, quindi ancora non c'è entrata. Però ancora non so che non dire. Ce l'ho. Se ne faccia una ragione, succede. Può avere una vita normale anche senza sentire gli odori. Posso avere una vita normale lo stesso? Sì, assolutamente. Sì. I sapori ancora li sento, quelli, ma non tutti, anche quelli lì. Quale sapore non sente? E per esempio, sai i sapori delicati, quelli buoni, delle fragole? Sono i sapori, sono quelli belli forti, Rudy? Sono sempre i sapori forti, ma quelli belli delicati. Beh, si accontenti dei sapori forti. Mi accontento, sì. Anzi, accontento. Sentire sapori forti e non avere l'olfatto a volte può essere anche un vantaggio. Luisella. Buongiorno. Da ridere, allora, non c'è da ridere, il test extra. Per cui ho cucinato le costolette d'agnello, sento questo profumo di costolette d'agnello. Sì. Ho vicino mio marito e sento il suo buon profumo di dopobarba. Scusi, a mezzogiorno e 45 ancora sento l'odore del dopobarba, quanto se ne è messo? Si è spalmato. È un buon profumo di dopobarba. Suo marito profuma di dopobarba tutte le ore della giornata, poi? Ho anche cucinato il finocchio lesso. Sì, però potete dire, vedete la cosa e sento odore di finocchio lesso. Deve sentire davvero il finocchio lesso? No, no, lo sento. Sente l'odore della crosticina? Con l'olio che ho usato. Sì. Lo sento molto. Se mi avvicino alla tenda, però sento che non è proprio pulitissima. Polvere, odore di polvere. Un pochettino odore di polvere. Se apro la finestra, invece, oggi è una bella giornata fresca. Sana come un pesce, ancora da vivere molto. Entra nelle narici il fresco. È molto interessante fare il test di Ekstrom. Io ho due dati che poi vorrò valutare. Primo, mi segue gente perlomeno viva, in percentuale più alta gente viva. Secondo, le donne stanno in cucina a quest'ora e gli uomini stanno in macchina. Sono due dati che possono servire. Il nostro marketing potrà trarne delle conclusioni. A tra poco. Melog. Chiamate all'800 24 00 24 e fateci in diretta la vostra mappa olfattiva. Contate e descrivete gli odori che vi arrivano al naso. Avrete la valutazione della vostra vitalità. La certificazione di essere ancora vivi sarà orientata sulla seguente scala di Ekstrom: A. Almeno 3 odori. Tirate a campare. B. 2 odori. State tranquilli, ma non troppo. C. 1 odore. Cominciate a fare testamento. D. 0 odori. Siete degli zombie. Istruzione per il test. Mantenete la mente sgombra. Soffiatevi il naso e liberate le narici. Chiudete gli occhi e fate una lunga inspirazione. 800240024, siamo all'ultima tornata delle persone che vogliono sottoporsi alla scala di Ekstrom per definire la loro vitalità. Livio, buongiorno. Buongiorno. È pronto per il test Ekstrom? Assolutamente sì. Comincia a descrivere gli odori. Allora, sento odore di acqua con cloro, sono vicino a una fontana, sono appena arrivato a Padova. A Padova, e... quindi c'è molto cloro nelle fontane pubbliche? Ma penso di no, penso soltanto che battendo l'acqua al suolo poi si libera un poco di vapore. Ah, sì, i vapori di cloro. Profumo. Interessante, poi sì. Poi si sente l'acqua che ha bagnato l'erba, quindi si sente il profumo di erba bagnata. Sì. Si sente il diesel delle macchine. Diesel, certo. E si sente ancora il profumo che ho messo stamattina, il boss. Ah, lei sente il suo stesso odore? Non posso dirlo. Vabbè, si sente il profumo che ho messo stamattina. Ma lei sente il suo stesso profumo, riesce a sentirlo? Eh sì, perché ho il polso vicino, quindi... Ma se l'hai messo sul polso, se l'hai messo? Anche. Strano, questo è singolare, perché di solito il proprio odore non lo sente quasi mai. Difficilissimo. No, infatti, sto apprezzando, sì. Forse è stata... la vostra trasmissione che mi ha fatto apprezzare questa cosa. Sì, però è interessante, vede, lei riesce comunque a fare una classificazione, fa una mappa olfattiva, uno non la fa mai, di solito uno si fida di quelle che sono la geolocalizzazione del proprio telefono, può guardare le cose che ha intorno, i negozi, le vetrine, quello che ascolta. Fare una mappa olfattiva dei posti non è del tutto peregrino, innanzitutto uno riesce a avere la prova della sua vitalità e questo non è poco. Lei questa mattina è certo perché ha superato il grado A della scala di Ekstrom, quindi va oltre i 3 odori e quindi oltre che tirare a campare, quindi è decisamente vivo. Maurizio. Buongiorno Maurizio. Si sottopone alla scala di Ekstrom? Sì, certamente. Allora, io ho un problema in famiglia mio, nel senso che purtroppo ho una sensibilità olfattiva, dicono fuori dal comune. Uh-huh. Innanzitutto... È un iperolfattivo, sì. Sì, perché tutti i profumi, soprattutto quelli che magari normalmente le signore mettono, pochissimi sono quelli che io riesco a non sentire come nauseabondi, però questo tipo di profumo. Però mi scusi, allora Maurizio, il suo problema è... adesso sto azzardando, io non ho le cognizioni della professoressa Ekström, però lei sente molti odori, ma sono odori nauseabondi per lei, anche se sono profumi, quindi è una tortura. Allora, la sua. Diciamo soprattutto i profumi ricchi di tipo arancio, limone. Agrumati, profumi agrumati. Ecco. Poi c'è questo, poi il mio ho fatto soprattutto sul mangiare, cioè sono un problema per mia moglie, perché se appena appena la carne comincia a prendere il colore, a sentire l'odore, io ho il pesce rifiuto assolutamente. Allora andiamo al punto, facciamo però il suo test, in questo momento cosa sente? Vediamo così, le dico se è vivo, penso di sì. Sì, allora in questo momento io sono seduto in macchina, sento l'odore della plastica che sta venendo fuori vicino a me, e quello del tappetino sotto, che è differente dalla plastica di sopra. Sì. E se adesso esco un attimo qua alla porta, c'è la fronda dell'albero, cos'è questo? È un, definisce no, anche la qualità dell'albero, sì. Sì, più che albero è un quei cespugli che vengono usati per fare il confine. Oleandro, dell'oleandro. Il ligustro. Ah, il ligustro. Ecco, ligustro delle bacche, alle bacche di solito il ligustro, quindi potrebbe dare l'odore della bacca. Io riesco a identificare, anche quando passo o viaggio in macchina, so il finestrino giù abbassato, riesco a identificare se è il campo di orzo oppure passiamo davanti. Quindi lei ha una forte capacità di selezionare e classificare gli odori, quindi la sua mappa olfattiva è molto ricca, quindi la professoressa Ekström dice che lei è vivo senza. Non mi porta molti vantaggi però. Beh, da essere vivo vuol mettere, è il vantaggio primario essere vivo, lei è vivo, intanto è vivo. Le posso dare certezza, avendo sottoposto al test, che lei è vivo, poteva essere zombie. Bene. Eddie. Nicoletti, buongiorno. Vediamo se è vivo, velocemente, che abbiamo pochissimo tempo e c'è una fila di persone che vuole sottoporre. Io sono nella classifica degli zombie, non sento niente. A zero lei? Zero. Io sono in macchina e non sento assolutamente nulla, mai, niente. Non sente nessun odore? Ma, guardi, io lavoro in un laboratorio chimico. E come fa? Sono venuto fuori adesso, abbiamo fatto delle analisi con dell'etere etilico, per cui è tutto anestetizzato. Ma lo sente l'odore dell'etere etilico? Lo sente un odore terrificante? Sì, quello lì sì. Ah, beh, allora, non è proprio esattamente vicino alla morte, probabilmente. Se sente l'etere, sente. Sì, dopo 5-10 minuti che ce l'ho sotto il naso. E adesso però, il test non può essere fatto con lei. Ha le narici, diciamo, anestetizzate all'etere etilico, certo. In questo momento non sente nulla, quindi non so che dirle, è sospeso il giudizio. Simone, chiudiamo con Simone. Simone, è l'ultimo. Pronto. Sì. Io sono uno zombie. Sì. Non quindi momentaneo, sono proprio zombie. Non ma perché? Sento niente. Ma da sempre, dalla nascita? No, sarà più o meno da 12 anni. Sono anosmico, ho dei polipi al naso e quindi. Ah, c'è un polipo dentro il naso, quindi non sente nulla. E quindi è chiuso il sistema. In più faccio anche parte mezzo test, nel senso che sono uomo, ero in macchina fino a 2 minuti fa. Ma adesso vado in cucina a cucinare a memoria, ovviamente. Quindi va a memoria. Vabbè, grazie. Abbiamo visto, se dobbiamo dare un dato statistico, la maggior parte delle donne che ci ascoltano in questa fase della trasmissione sono in cucina. E gli uomini, in realtà, se ne vanno per fratte. Sì, stanno in macchina, ma chissà perché sentono tutti a mezzogiorno l'odore di erba bagnata. O non so che lavoro facciano, ma la maggior parte dei nostri uomini che ci ascoltano si infrattano verso mezzogiorno, mentre le mogli stanno cucinando e fanno il soffritto con la cipolla. Questo è il dato statistico. Non so che farci, è doloroso, lo so. Alla prossima.